La cigüeta la porta i sogni, ma adesso Tony è il gapio e pagura. Neanche adesso che in sola riva, che comparis la donna scura. Fata fundalia, Tabarius le mort, e anche Slav con tisotai. Ma quel Berto coraggioso, nel me cœur, creperà mai. Fata fundalia, la se ved menga, la stanza il fund del fund del fund, ma la sua lacrima, l'usis, e la galeggia, sura Jung.